La Spina. Buonasera, signora Spina. Buonasera. Sì, dunque, guardi, se ci vuole parlare un po' del suo lavoro. Ma che lavoro? Ma che lavoro il mio? Si può chiamare lavoro? Io non stacco mai. Io non so mai quando stacco. Non posso pianificare niente nella vita. Ho degli orari di lavoro stranissimi. Ma ti pare che per staccare di lavorare devo aspettare che uno muore? Ma che? Eh no, infatti immagino. Ma no, non immagino. Io non posso programmare nulla. Non può essere che comincio un turno al lavoro e stacco dopo 6 mesi. Stiamo messi peggio dei commessi di S. Lunga noi. Ho capito, ma non posso staccare manco un attimo per fare le cose mie. Ogni volta per chiedere un permesso intervengono ministri, vescovi, il Papa, lettere a Montecitorio. Oh! E non se ne può più. Ah, quindi la situazione è difficile. È impossibile, non è difficile. Io me ne voglio andare. Io me ne vado. 2 mesi e me ne vado. Vado a trovare una mia amica che dove lavora lei è bello, ci sono le colline, la campagna. E lei stacca subito, 2 ore stacca. Ah, bello, ma dove abita? In Svizzera. Ma come in Svizzera? Eh sì, sta sempre a staccare. Non fa in tempo a staccare a lavorare, che è già staccato, è bellissimo. E non è vita questa. E io devo cambiare, altrimenti impazzisco. C'è una tensione altissima. Ma mica è un lavoro. Te lo giuro, ci sono dei giorni in cui spero addirittura che venga via la luce. Ma no, ma no, ma dai. Ma poi, per carità, a me i pazienti mi fanno pure pena, però a una certa non tacco là. Ma dai, ma scusi, ma non può dire queste cose. Che poi è colpa mia che volevo lavorare nel sociale. Devo cambiare lavoro. C'è una mia cugina che sta attaccata a una abat-jour, non fa niente tutto il giorno. L'attaccano 2 ore la sera per leggere, ma poi questi manco leggono, quindi la staccano subito. Io sono l'unica che non stacca mai. Narta si è aperta un locale qui vicino, a San Lorenzo, ha fatto pure una bella insegna. Ah sì, come si chiama? Birra alla Spina. Questa la battuta la dovevo togliere, non la tolgo mai. Vabbè, rientriamo, rimettiamo la quarta parete. Capisco, quindi, insomma, signora Spina, insomma, la situazione è complicata. Eh sì che è complicata, ma voi ci avete idea della responsabilità, l'attenzione mediatica e anche una questione di soddisfazione personale, no? Un tempo si diceva staccare la spina per divertirsi, no? Sai, devo staccare un po' la spina. Ora c'è un mio amico, voleva staccare un po' la spina, ha fatto un viaggio, è morto. Ma dove è andato? In Svizzera, ho capito. Ma scusi, ma è una cosa terribile, è una macchina del fango, è un complotto, cominciano fin da bambini e gli dicono attenta a non mettere le dita nella spina, non mettere le dita nella spina, e lì giù le mamme, brutta spina, brutta, puh, cattiva, diglielo, ma perché se il bambino mette le dita nella spina, ma che è colpa mia? Mia cugina, povera, l'hanno messa in croce, vabbè, ma poi è colpa di tanti politici, diciamolo, che continuano a dire cose a sproposito. Insomma, di queste cose non se ne potrà mai parlare finché ci sarà gente come Giovanardi. Ah sì, lei dice sì. A proposito, vorrei, se è possibile, dire anche una cosa all'ex ministro Giovanardi. Sì, mi raccomando, insomma, siamo in radio, senza... No, assolutamente. Allora, caro ministro Giovanardi, adesso che viene la primavera, perché non te ne vai in campagna a raccogliere un bel mazzetto dei cazzi tua? No, scusate, io sistemi, si alza la tensione, vado in cortocircuito. Sì, però, ecco, mo, al di là di tutto, io volevamo chiederle, insomma, lei di tutta questa cosa dell'eutanasia, lei, che cosa ne pensa? Beh, allora, a parte che dovrebbero parlarne i diretti interessati o quelli che li stanno vicino, perché la decisione spetterebbe a loro. Detto questo, se mi chiedi cosa ne penso io, per quanto mi riguarda, alla morte l'ideale sarebbe arrivarci da vivi. Grazie.